Addio mia bella signora, lasciamoci così senza rancore al destino che vien, rassegnarci conviene, sospirare, piangere, perché? No, la commedia è inutile, ti leggo in fondo al cuore. Quello che vuoi nascondermi sta scritto in fronte a te. Su, non mentire, dimmelo, che spento è il nostro amore. Tanto che vale illudersi, tutto finisce in me. Addio mia bella lasciamoci così senza rancor al destino che vien, rassegnarci conviene, sospirare, piangere perché. Tu sei passata incognita, un dì sul mio cammino. Io senza nulla chiederti, t'accolsi in braccio a me. Confusi in un sol palpito, il mio col tuo destino. Ora mi dici, vattene, vedi non t'amo più. Addio, mia bella signora. Va pure, segui pure il tuo destino. Saprò dire al mio cuore, è finito l'amore, la chimera.